2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 25 e 26 luglio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it oppure attraverso il servizio podcast. In questo modo, attraverso un software adeguato e pensato proprio per il podcast, come ad esempio iTunes, che gestisce anche i podcast, potete aggiornare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Avete la possibilità quindi di riascoltarci quando preferite, ma anche nella modalità che preferite, ad esempio a pezzetti, che ne so, 10 minuti al giorno. Più tardi parleremo di TV digitale, di satellite e di digitale terrestre, ma visto che è già con noi Gianfranco Giardini, il nostro esperto di audio e video digitale, Gianfranco, di che cosa parleremo nella seconda parte? Giusto qualche anticipazione. Parleremo della battaglia che è in corso tra le emittenti impegnate sul digitale terrestre e quelle impegnate principalmente su satelliti come Sky per aggiudicarsi i favori del pubblico con nuovi servizi, spesso e quasi sempre declinati in chiave alta definizione, ma non solo, e vedremo dopo come. Potremmo dire che ci sono tre piattaforme, cioè Sky, il digitale terrestre, che è una piattaforma anche se aperta a tanti soggetti, e una nuova che è partita, anzi partirà tra poco. Sì, partirà a fine luglio, si chiama TVSAT. E dunque di questo parleremo più tardi nella seconda parte di 2024 con Gianfranco Giardini. Adesso alcune notizie della settimana. Alcune riguardano la Microsoft, che ha annunciato che Windows 7, quindi la settima versione di Windows, sarà disponibile agli utenti in tutto il mondo il 22 ottobre. In settimana la società ha inviato il codice di Windows 7 ai produttori di computer, che potranno così già installare il sistema operativo sui PC in produzione quest'estate e in vendita appunto dal 22 ottobre in poi. Come sapete, su questo nuovo sistema operativo si concentrano le attenzioni di tutta l'industria dei PC, che spera di vedere una ripresa delle vendite, e potremmo dire anche dell'industria del software, che spera di vedere una ripresa delle vendite dopo il fallimento di Windows Vista. Molti infatti hanno rimandato l'acquisto di un nuovo computer e passeranno direttamente da XP a Windows 7. Sempre naturalmente che il nuovo Windows sia un buon prodotto, questo lo vedremo presto. Altrimenti, come sapete, come abbiamo già detto nelle ultime puntate di 2024, è già pronto Google ad approfittare di un'eventuale mossa falsa della Microsoft con il proprio sistema operativo in arrivo dal prossimo anno. Anche se, abbiamo detto, le cose non saranno sicuramente facili. In vista di questo arrivo del nuovo sistema operativo, la Microsoft ha ceduto alle richieste della Commissione europea e consentirà agli utenti di scegliere tra diversi navigatori internet invece di fornire assieme a Windows 7 solo Internet Explorer. L'annuncio è stato fatto dalla Commissione, che dà così il benvenuto alla decisione della Microsoft, una decisione arrivata dopo un lungo confronto tra Bruxelles e l'azienda di Redmond, accusata di abuso di posizione dominante ed esposta al rischio di nuove multe. Questo aggiornamento, c'è un aggiornamento in arrivo che evita che Internet Explorer si installi come browser di default, quindi con il programma di navigazione principale, dovrebbe essere già distribuito dalla metà di agosto e quindi non solo per Windows 7, ma sarà già disponibile per XP o per Vista. Spesso succede proprio così, che questi programmi, soprattutto targati Microsoft, vogliano installarsi o comunque vogliano essere principali con una certa arroganza che a volte disturba un po'. Ricordate che esistono altri browser altrettanto validi, anzi in alcuni casi molto più performanti anche in termini di velocità rispetto a Internet Explorer, come Firefox con l'ultima versione, anche Chrome oppure il Safari di Apple. Comunque, essendo gratuiti, vi consigliamo di provarli tutti e poi di scegliere quello che preferite. Adesso una notizia apparentemente poco importante, ma che se si diffondesse sarebbe un po' pericolosa. Parte dalla Russia: la più potente lobby industriale russa questa settimana ha chiesto ai legislatori di imporre restrizioni all'uso di Skype e agli altri programmi VoIP, quelli che permettono di telefonare via internet. Sono convinti questi lobbisti, che naturalmente fanno gli interessi dell'industria delle telecomunicazioni, che i servizi telefonici via internet costituiscano una minaccia per le imprese russe e per la sicurezza nazionale. Si tratta chiaramente di una delle più grandi stupidaggini sentite negli ultimi tempi, ma pericolosa. Dietro a questi presunti problemi di sicurezza si vogliono bloccare sistemi di telefonia via internet che minacciano i ricavi degli operatori telefonici. Il problema è che gli operatori telefonici sono sì sotto pressione in tutto il mondo, e questo l'abbiamo detto anche recentemente, e cercano in ogni modo di proteggere i privilegi che ancora hanno. Ricordiamo che tecnicamente non ha più alcun senso avere il servizio di telefonia distinto da quello internet. Le società potrebbero offrire il solo collegamento ad internet, e su quel collegamento, così come si fanno passare le email e tutto il resto, si fanno passare anche le telefonate in tecnologia VoIP. Ma naturalmente questo vorrebbe dire rinunciare ad una parte dei ricavi. In Russia ci si protegge anche dicendo che quasi tutti i software in tecnologia VoIP non sono nazionali, e quindi c'è anche un certo orgoglio nazionale, ma vedremo poi come evolverà questo dibattito. A proposito di telefonia, c'è una notizia che riguarda l'Italia. Da novembre dovrebbe diventare più rapido il passaggio da un operatore di telefonia fissa ad un altro. L'autorità per le comunicazioni ha messo nero su bianco le nuove regole per il trasferimento dei clienti tra operatori di rete fissa. Dagli attuali 20 giorni si passerà a 10 giorni dal prossimo 1 novembre e a 5 dal 1 marzo 2010. Adesso parliamo dei progetti italiani partiti in alcune città per portare internet gratis ai cittadini via rete Wi-Fi. Di hotspot Wi-Fi ce ne sono molti in tutta Italia, ma sono pochi i progetti di una certa dimensione strutturati all'interno delle città con un numero di hotspot piuttosto elevato. A Milano era stato fatto un grande annuncio circa 2 anni fa, per ora nulla è stato realizzato, di un progetto che prevedeva di irradiare il segnale da 14.000 access point. Sul progetto, basandosi sull'idea che era stata lanciata a Seul, dove invece il progetto è andato avanti. A Venezia è stato invece attivato da poco un servizio Wi-Fi cittadino, che è stato preceduto dalla cablatura della città in fibra ottica. Di Venezia parleremo tra poco, adesso diamo uno sguardo sulla nazione. Saluto Alessandro Longo, bentornato a 2024. Grazie, vi saluto tutti. Alessandro, quali sono i progetti più interessanti, più importanti che sono partiti in Italia, e in quali città abbiamo visto la nascita e l'attivazione recentemente di reti Wi-Fi? Credo che il progetto che sta crescendo di più, ed è anche quello più grande, sia della provincia di Roma, il progetto Provincia Innovazione, che è in vari comuni di Roma. Adesso sono circa 100 gli hotspot gratuiti attivati con un sistema di reti federate, come viene chiamato, cioè in sostanza la provincia ha messo insieme diversi soggetti pubblici, privati, dalle biblioteche agli hotspot del consorzio Roma Wireless, università eccetera, e li ha messi tutti in una stessa rete, per cui l'utente, una volta che ha l'account per navigare su questa rete, poi può collegarsi a qualsiasi hotspot di qualsiasi soggetto. Sono un centinaio, come ho detto, l'obiettivo è di arrivare a 500. Quindi questo è sicuramente più grosso. Poi però ce ne sono altri, appena partito a Venezia nei principali posti del capoluogo. Poi abbiamo a Bologna, in alcune zone del centro storico. A Genova c'è la promessa di partenza che partirà a breve, anche a Torino, dove però pare che sarà a pagamento, e poi anche a Milano, che tu giustamente citavi, effettivamente c'è poco, ma c'è a Parco Sempione e nell'idroscalo, nella zona dell'idroscalo. Quindi insomma il principio in generale è che c'è l'autenticazione via SMS solitamente, si chiama un numero gratuito e ti arriva un SMS con il tuo nome utente e password e tu entri. Solitamente questi progetti hanno un limite di tempo o di dati giornaliero incluso nella, insomma, nell'offerta gratuita. Nel caso di Roma è ecco, abbastanza ampio, alcuni gigabyte, per cui se resti all'interno di quella soglia puoi stare anche 24 ore connesso a internet tramite wifi pubblico. Senti, come vanno le cose nel resto del mondo, magari nel resto dell'Europa, e soprattutto vorremmo anche capire per quale motivo negli ultimi tempi, seppur in tono ridotto rispetto a progetti che erano stati annunciati qualche anno fa, sono state attivate queste reti e quindi viene fornito, seppur con alcune limitazioni, in alcuni casi solo per i residenti, ma comunque esiste la possibilità di avere internet gratuito. Ecco, come sappiamo, alcuni anni fa queste reti municipali wireless gratuiti erano molto di moda, sono partiti negli Stati Uniti, nelle principali città, poi tutti i progetti andati male perché si sono resi conto che in sostanza erano un grande costo. Poi recentemente, da un annetto, hanno ripreso, per esempio, Philadelphia, San Francisco, Minneapolis, e poi anche nell'estremo oriente tipo Taiwan, Singapore, in Europa ad Amsterdam, eccetera, hanno ripreso sotto l'impulso di due fattori. Il primo è che hanno trovato modi per farle costare di meno, perché i costi della tecnologia, della banda, sono anche degli apparati soprattutto, sono calati, hanno trovato modi per utilizzare infrastrutture esistenti con nuovi apparati più leggeri, per esempio sui lampioni, eccetera. E poi il secondo impulso è tipicamente politico. In Europa e anche negli Stati Uniti si rafforza il principio secondo cui la banda larga debba essere un diritto universale dei cittadini, e quindi ci debba essere un accesso gratuito a costi molto, molto bassi, politici appunto, per tutti i cittadini, meglio via wifi, perché così è anche possibile utilizzare internet dalle strade, dalle piazze. In Italia questo concetto è stato recepito da alcuni politici, e quindi di qui sono nate le prime, sono rinate le iniziative Wi-Fi, che non hanno più un obiettivo di profitto, ma semplicemente hanno un obiettivo sociale. Bene, Alessandro, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro e anche buone vacanze, a presto. Grazie, saluto tutti. Adesso, come vi dicevo, come vi annunciavo poco fa, parliamo di Venezia, dove il Wi-Fi è stato attivato in alcune aree della città, gratis per i cittadini, a pagamento per i turisti. Un progetto attivato, annunciato un paio di anni fa, per posare prima di tutto fibra ottica in tutta la città al servizio in primis della pubblica amministrazione, di tutte le sedi della pubblica amministrazione della città. Poi naturalmente esistono anche tutta una serie di servizi che sfruttano questa fibra ottica, servizi che possono essere sfruttati dalla pubblica amministrazione ma anche dai cittadini. Il progetto è interessante, ci sono altre città che hanno fatto progetti simili o che stanno pensando a progetti analoghi. Ne vogliamo parlare con Antonio Pezzuol, che è responsabile dei sistemi informativi e dei servizi ICT di Venice. Benvenuto a 2024. Grazie mille. Ricordiamo che Venice è la società del comune di Venezia che si occupa appunto dei servizi informatici, della tecnologia nella città. Dicevo che voi avete prima di tutto steso fibra ottica in giro per la città, cosa tra l'altro che recentemente si fa sempre meno, o meglio, i privati fanno sempre meno, perché naturalmente posare fibra ottica costa, ma è, potremmo dire, fondamentale se si vuole guardare al futuro dei servizi internet, della connettività di internet. Partiamo proprio da qua, Pezzuol. Che cosa avete fatto in questi ultimi anni e naturalmente che cosa continuerete a fare, insomma, laddove ci sarà l'opportunità e la necessità? Sì, dunque, in questi ultimi anni abbiamo fatto un lavoro assieme al Comune di Venezia, di coordinamento delle attività relative ai lavori pubblici sul territorio, quindi sistemazione della pavimentazione, scavi, per permettere a fattor comune gli asset di trasporto della fibra ottica. Quindi, nel corso degli anni, di questi ultimi 2 anni, ogni qualvolta c'è stato uno scavo pubblico si è approfittato per passare delle tubature necessarie per il passaggio dei cavi in fibra ottica. In questo modo, coordinando le attività di tutti gli attori coinvolti, si è potuto sfruttare ogni piccola occasione, ogni lavoro per stendere cavi in fibra ottica sul territorio cittadino. E questo quindi è il primo passo per poi arrivare ad altri servizi di cui parleremo tra poco. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con la nostra redazione, è 2024, scritto in cifra, 2024, @radio24.it. Stiamo parlando del progetto che è stato presentato da poche settimane a Venezia per erogare servizi ai cittadini. Forse il più appariscente è quello di connettività ad internet via wifi, gratis per i cittadini, a pagamento per i turisti, ma un servizio, un progetto che è partito un paio di anni fa con l'inizio della posa della fibra ottica in tutta la città. Ne stiamo parlando con Antonio Pezzuol, che è responsabile dei sistemi informativi a Venis, che è l'azienda che si occupa delle tecnologie per il comune di Venezia. Pezzuol, lei mi diceva che in questo lavoro di messa a fattor comune, diciamo così, di tutti i punti dove è possibile far passare la fibra, beh, c'è stato anche un lavoro positivo di dialogo tra enti, amministrazioni, aziende che magari normalmente dialogano poco, cioè la fibra è stata un po' una scusa, un motivo per parlarsi, che è anche un bel messaggio. Sì, questo è stato fatto un ottimo lavoro di coordinamento da parte del Comune di Venezia e finalmente ha messo in intercomunicazione, in interscambio di informazioni gli enti locali preposti alla manutenzione cittadina. Quindi la manutenzione dei sottoservizi è diventata l'occasione per la condivisione, per la creazione di una sorta di regia comune nelle attività di manutenzione. Senta, concretamente questo vuol dire che, ad esempio, se in una zona c'era la necessità o c'è la necessità di fare, che ne so, una fognatura, la società che si occupa della fognatura pensa anche di mettere vicino un tubo per poi mettere fibra ottica. Esatto, perfettamente, perfetto. Quindi questo intervento, esatto, è correlato con ove non presente e se di interesse per la predisposizione delle dorsali in fibra ottica che girano all'interno del territorio, si fa posare il tubo. Voi avete coperto tutta la città o quasi tutta la città? Sì, allora le dorsali, quindi diciamo le autostrade informatiche che trasportano il maggior numero di informazioni, raggiungono tutta la città. E voi avete posato fibra ottica al servizio prevalentemente della città intesa come pubblica amministrazione, giusto? Sì, lo scopo è quello. Quindi sono collegate sedi del comune e altri enti? Sì, e altri enti come l'università, quindi enti della pubblica amministrazione che possono avere un'afferenza anche con la vita quotidiana del cittadino. Per fare un esempio, il Comune di Venezia ha molte sedi sparse sul territorio, questo è dovuto alla morfologia del territorio, perché ci sono le isole, le isolette, e quindi abbiamo la necessità di essere capillari, il Comune ha la necessità di essere capillare sul territorio per poter erogare i suoi servizi al cittadino. Il fatto che a Venezia ci siano i canali è stato un fattore che vi ha agevolato, quindi magari la fibra è stata buttata nei canali e è messa diciamo in fondo al canale, così come si fa a largo nel mare, oppure no? No, purtroppo no, perché la posa di cavi sottomarini a Venezia è a rischio per le continue e costanti attività di dragaggio dei canali navigabili, per cui si corre il serio rischio di trovare il cavo bennato e troncato, quindi ove possibile, nella maggior parte dei casi abbiamo evitato la posa di cavi sottomarini per sfruttare piuttosto le tubature posate secondo le modalità espresse in precedenza o al limite con testate aeree utilizzando le infrastrutture della pubblica illuminazione. Senta, i cittadini in che modo sono coinvolti? Beh, naturalmente se questo è a servizio della pubblica amministrazione, di conseguenza poi ne beneficiano anche i cittadini, ma direttamente i cittadini possono collegarsi alla fibra ottica oppure no? Allora, allo stato attuale la fruizione dei servizi messi a disposizione dal progetto che prende il nome di cittadinanza digitale non prevedono l'interconnessione alla dorsale in fibra ottica. Il punto di fruizione che attualmente abbiamo inaugurato con un evento il 3 luglio è invece la fruizione di servizi di navigazione internet basati su tecnologia wireless, quindi su Wi-Fi, e fruibili gratuitamente da ogni cittadino, qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta iscrivendosi al circuito. Quindi diciamo che immagino non nelle case, forse in aree esterne alle case ci sono delle zone che sono coperte da rete Wi-Fi e i cittadini possono navigare gratuitamente. Mi pare che ad esempio i turisti debbano pagare una quota giornaliera, comunque il servizio è a disposizione in alcune aree della città. Sì, sì, sì, confermo. Quindi ci sono delle quote piuttosto accessibili e popolari destinate ai turisti che utilizzano il circuito di Venice Connected. Il circuito di Venice Connected è una modalità di ticketing online per cui uno può prenotare e acquistare con anticipo online i servizi che andrà ad utilizzare in città, trasporti, wifi, biglietti per eventi, mentre il cittadino residente iscritto a cittadinanza digitale può fruire di credenziali di accesso che gli permettono di accedere al primo servizio che abbiamo messo in piedi, che è proprio quello di navigazione. In futuro però queste credenziali, che rappresentano quindi non solo una copia di, cioè non solo una user password, ma in realtà hanno la valenza di diritto di godimento della cittadinanza digitale, permetteranno di accedere ad altri servizi. Il nostro vice sindaco, ad esempio, parlava di telemedicina, solo per fare un esempio. Certo. Senta, i vantaggi principali che lei vede in questo progetto per il comune, per la pubblica amministrazione in generale, quali sono? Sicuramente il fatto di effettuare un investimento concreto che nel tempo si ripagherà da solo. Faccio solo un esempio: collegare e interconnettere al centro elaborazione dati con il data center comunale le sedi del comune rappresenta un costo piuttosto corposo se basato sui servizi offerti dai carrier privati o i carrier nazionali. Quindi il fatto di aver steso fibra proprietaria permette nel corso degli anni di abbattere tutti i costi di interconnessione e di trasporto delle informazioni, che come ben sappiamo in una pubblica amministrazione fortemente distribuita sul territorio come la nostra sono una voce piuttosto corposa, ecco, importante. Senta, le faccio un'ultima domanda per capire di quali velocità stiamo parlando, anche se la velocità non è tutto, ci sono molti altri parametri e molte altre considerazioni che si devono fare, ma di quali velocità stiamo parlando in termini di megabits o gigabits? Allora, le dorsali attualmente vengono illuminate a 10 gigabit al secondo. L'interconnessione verso le sedi avviene a 1 gigabit al secondo. L'accessibilità ad esempio verso internet da parte della rete comunale avviene a 1 gigabit al secondo, per intenderti. Bene, Pezzoli, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie a lei e buona giornata a tutti. Ricordiamo che non solo Venezia ha posato fibra ottica negli ultimi anni e ha realizzato una rete per la pubblica amministrazione, ma anche altri enti locali hanno fatto o stanno facendo progetti di questo genere. Sicuramente quello più ambizioso e più avanzato anche per le dimensioni è quello della Regione Emilia-Romagna, che entro il prossimo anno collegherà in fibra ottica e anche con altre tecnologie tutte le pubbliche amministrazioni locali in tutta la regione. La cosa interessante di questi progetti è che la rete in fibra che viene realizzata può essere tecnicamente e potenzialmente affittati in un secondo momento anche agli operatori di telecomunicazioni, quindi potrebbe essere un bene anche per il paese. E cosa ancora più interessante, potrebbe essere messa a disposizione anche dei cittadini, magari a pagamento. Se il mio comune mi offrisse un collegamento in fibra a 10 megabit a 10 euro, 20 euro, beh, sarei sicuramente molto contento. Se è vero, come alcuni stanno cominciando a dire, l'abbiamo detto anche poco fa, che internet dovrebbe essere un diritto come lo è la mobilità, beh, allora la pubblica amministrazione potrebbe pensare di non fare solo le strade, ma anche i collegamenti ad internet, potrebbe offrire i collegamenti ad internet. Adesso parliamo di innovazione di business, ci spostiamo un po' più a nord rispetto a Venezia. Parliamo del Business Day organizzato per il 2 ottobre 2009 dall'Area Science Park di Trieste. Giuseppe Colpani è il direttore generale. Area è un ente di ricerca che è sotto il controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, ma che ha come principale compito quello di sostenere la competitività delle imprese e dei territori dove opera. Diciamo che per fare questo abbiamo grosso modo un paio di strumenti molto importanti. Da un lato abbiamo la gestione del parco scientifico e tecnologico che appunto si trova a Trieste e dall'altra svolgiamo attività, numerose attività di servizio di trasferimento tecnologico per tutte le imprese che sono localizzate in regione ma anche fuori regione, anche a livello internazionale. Ecco, diciamo che quindi questa iniziativa prende animo e vigore da questo interesse, diciamo così, ad aumentare la competitività delle imprese che sono insediate nel parco scientifico, anche sulla base della considerazione che negli ultimi anni è cresciuto il numero delle imprese. Noi oggi abbiamo più di 100 prodotti, diciamo, tecnologici innovativi all'interno del parco. Alcuni di questi hanno già delle aree di mercato molto interessanti, altri invece sono proprio nuovi, quindi poco conosciuti, e quindi abbiamo avuto un po' quest'idea, invece di presentarci in maniera sporadica alle varie fiere di settore, di rendere disponibile queste tecnologie, questi prodotti, diciamo, a un pubblico più vasto che può essere concentrato in una giornata, e in un certo senso dare un'opportunità alle nostre imprese in un'unica volta, diciamo una stop shopping, di sviluppare un po' la loro attività. Diciamo che questo concetto si articola soprattutto sulla base del fatto che oggi come oggi l'innovazione è molto trasversale ai settori interessati, e le nostre imprese sono in diversi settori: scienze della vita, elettronica, fisica e materiali, nanotecnologia, energia, e quindi diciamo un'azienda che viene al Business Day è in grado di cogliere magari anche idee e opportunità che non sono eventualmente nel settore in cui opera, ma che possono essere migrate da settori paralleli con un buon interesse, insomma. Per maggiori informazioni potete consultare il sito internet www.area.trieste.it, metteremo un link anche sulle pagine di 2024. Vi ricordo l'appuntamento con il Business Day, a cui collabora anche Radio 24, 2 ottobre 2009. Seguiteci tutte le settimane, il sabato nel pomeriggio di Radio 24, oppure la domenica sera sempre su Radio 24 tra le 22 e le 23. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro programma è disponibile come sempre a partire dal lunedì pomeriggio anche su internet. Vi consigliamo sempre di abbonarvi al servizio podcast, abbonamento gratuito, una sottoscrizione, una semplice operazione con un software, ad esempio con iTunes. Se volete maggiori dettagli inviateci una email oppure consultate il nostro sito internet. Dicevo che adesso ci vogliamo occupare della battaglia tra le TV nell'era digitale, non solo sul digitale terrestre ma anche sul satellite. Ci saranno presto alcune novità interessanti, speriamo che siano interessanti. Saluto il nostro esperto di audio e video digitale Gianfranco Giardina, bentornato a 2024 Gianfranco. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Partiamo da un nuovo soggetto che entrerà a far parte di questa arena molto complessa, che sta diventando sempre più complicata, cioè ci sarà una nuova piattaforma satellitare e purtroppo, ahimè, anche nuovi decoder. Poi non è obbligatorio comprarli questi decoder, ma sicuramente è un terzo elemento da tenere in considerazione. Che cosa è stato presentato questa settimana e che cosa succederà nei prossimi giorni? Allora, è stata presentata una nuova piattaforma che si chiama TVSAT, Scritto per esteso. Per esteso, TV proprio, TV, team, quattro lettere, TV SAT. E questa piattaforma, in realtà abbiamo parlato di nuova piattaforma, effettivamente è una nuova piattaforma, ma gli operatori non sono particolarmente nuovi, visto che la società TV che gestisce questa piattaforma è completamente controllata in larghissima maggioranza da Rai e Mediaset, e con una quota di minoranza da Telecom Italia Media, quindi la 7. Sì. Questa piattaforma nasce con lo specifico intento di garantire ai cittadini che non saranno coperti da un segnale sufficientemente buono per la TV digitale terrestre, di ricevere comunque i medesimi canali, ma in tecnologia satellitare, cioè con una trasmissione via satellite, quindi che in qualche modo metta a riparo questi cittadini dai problemi legati alla ricezione per una montagna, per situazioni geografiche complesse. Infatti il segnale digitale, questo va sempre ricordato, non è che può essere ricevuto disturbato come era per la TV analogica, con gli sdoppiamenti, con la neve. Fino a un certo livello di segnale si vede, oltre un certo livello di segnale scompare. Ecco, quindi in tutte quelle zone in cui la TV analogica oggi viene vista magari in maniera molto disturbata, parliamo delle zone montane eccetera eccetera, c'è il rischio che il segnale non sia sufficientemente forte per essere ricevuto correttamente, e quindi non viene proprio ricevuto, neanche disturbato. Quindi bisogna comunque garantire ovviamente l'accesso ai canali televisivi generalisti per queste persone, se pensate di utilizzare il satellite. Quindi questa piattaforma nasce in teoria soltanto per quel 4% di popolazione che si stima potrebbe incontrare questi problemi. La realtà è forse anche un po' diversa, perché probabilmente anche per motivi magari di impianto antenna centralizzato non adeguato, mentre l'impianto satellitare è già pronto, che hanno molti in casa, anche nelle grandi città o nelle zone densamente abitate dove problemi di segnale non ci saranno, si può comunque optare per non prendere il decoder digitale terrestre, ma prendere un decoder TV SAT, e quindi un decoder satellitare apposito che permetterà di vedere i medesimi canali. Quindi noi ricordiamo che c'è un processo in atto, alcune regioni hanno già fatto un primo passo verso il segnale della TV digitale terrestre, ma questo processo si concluderà, anche se alcuni vorrebbero velocizzare il tutto, comunque è previsto il termine nel 2012, quindi al 2012 tutti dovrebbero poter vedere i nuovi canali della TV digitale terrestre. Abbiamo detto appunto che ci saranno alcune zone che non saranno coperte, quindi se si sono Rai, Mediaset e in minoranza la 7, se sono inventati questa piattaforma nuova per coprire queste aree. C'è chi dice, Gianfranco, che il satellite sarebbe potuta essere una soluzione per evitare di comprare decoder, ma mi pare che poi il decoder serva comunque. Ma alcuni dicono, Aldo Grasso l'ha detto questa settimana, scritto sul Corriere della Sera, per liberare frequenze terrestri, e quindi non fare il passaggio dall'analogico al digitale, ma fare il passaggio dall'analogico terrestre al digitale satellitare. È una soluzione che potrebbe essere. Poi torniamo nella battaglia che si sta vivendo in queste mesi sulle TV digitali, perché poi parliamo anche di Sky, dell'HD, dell'alta definizione, eccetera, eccetera. Ma questa soluzione, che a me da un certo punto di vista piace, perché libererebbe frequenze per internet, penso che sia più utile spendere soldi e diffondere internet piuttosto che la TV. Su internet ci si fanno tante cose, sulla TV ben poco. Assolutamente corretto dal punto di vista prettamente teorico, dal punto di vista pratico credo che sia molto complesso, perché richiederebbe che tutta l'utenza italiana, praticamente tutti quelli che hanno un TV in casa, abbiano anche una parabola, e una parabola puntata appunto verso Eutelsat. Non è una cosa facilissima, sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista architettonico, qualcuno potrebbe dire, obiettare, perché in mancanza di un impianto centralizzato, o con la difficoltà di fare un impianto centralizzato, edificio ovviamente già completato, probabilmente prolifererebbero le parabole sui balconi, che sappiamo essere non abbastanza tanto belle, antiestetiche. E quindi il digitale terrestre ha il vantaggio dalla sua che nella stragrande maggioranza dei casi gli attuali impianti di antenna già presenti nelle case, centralizzati e non, sono già adeguati alla ricezione o richiedono piccoli interventi. Quindi nella maggior parte dei casi non bisogna far nulla se non mettere un decoder o comprare una TV nuova. Beh, decoder e TV nuova nelle case ovviamente, certo, sì, ma se parliamo dell'impianto di antenna probabilmente richiede al massimo una regolazione da parte dell'antennista, ma l'impianto resta quello, la cablatura resta quella e l'antenna fisicamente resta quella. Quindi da questo punto di vista l'idea di avere soltanto il satellite sicuramente ha un certo fascino, perché libererebbe l'etere, anche se non ci mettiamo internet e semplicemente liberiamo delle frequenze e non le utilizziamo più, probabilmente anche una bella, sarebbe una bella notizia, certo, anche dal punto di vista, per l'inquinamento elettromagnetico, e per chi magari vive sotto le antenne terrestri, quelle che sono disperse sul territorio, quindi che evidentemente potrebbero non essere più soggette a questi campi elettromagnetici. Però va anche detto che l'impatto ambientale di milioni di parabole in Italia potrebbe essere abbastanza peccato, forte. Mi verrebbe da dire peccato, perché leggendo appunto Aldo Grasso questa settimana, insomma, l'idea mi sembrava buona ed è, come tu dicevi, dal punto di vista teorico una buona idea. Comunque noto ed è positivo che ogni tanto qualcuno anche su i grandi giornali scrive a favore di internet, cosa che purtroppo si fa troppo poco. Ecco, magari piuttosto di pensare alle parabole comincerei a pensare perché quantomeno nelle grandi zone urbane non si pensa a una TV via cavo. Sì. Ecco, questa sì, i cavi sono già praticamente largamente estesi, basterebbe utilizzarli forse meglio e l'inquinamento elettromagnetico sarebbe assolutamente nullo. Sì, scomparirebbe. Su questo stanno naturalmente lavorando soprattutto i carrier di telecomunicazione con la IPTV, ma vediamo insomma che lì sicuramente ci sono ben pochi investimenti, mentre gli investimenti ci sono e sono abbastanza evidenti nella TV tradizionale generalista. Quindi in questa TV SAT si vedranno a partire dai primi di agosto? Sì, il debutto è fissato per il 31 luglio, è un debutto un po' virtuale, perché è un debutto contemporaneo delle trasmissioni e della disponibilità nei negozi dei decoder. Nessuno avrà il decoder. Quindi il 31 luglio mattina nessuno avrà un decoder, quindi potranno partire le trasmissioni, ma sarà un debutto virtuale. Però diciamo agosto serve di rodaggio, diciamo che parte a settembre. Che cosa si vedrà? Si vedranno una trentina di canali, direi, tutti quelli generalisti che sono già disponibili sul digitale terrestre e anche quelli diciamo tematici, quindi i canali Rai tematici, i canali Mediaset tematici, non i canali a pagamento, perché la piattaforma nasce come piattaforma gratuita, almeno per adesso. E, quindi i famosi Mediaset Premium, quelli non ci non sono. Non saranno diffusi via satellite, almeno per adesso. Per adesso. Non ci saranno, almeno al momento, emittenti locali. Quindi si parte soltanto con le emittenti nazionali. La piattaforma però è aperta, proprio deliberatamente, proprio chiarito questo in maniera molto evidente anche sul sito del Consorzio TV, è aperta a qualsiasi editore volesse diffondere gratuitamente i propri canali sul territorio nazionale. Il decoder, che costerà intorno ai 99 euro, contiene già al proprio interno la card di TVSAT, la smart card. Infatti bisognerà comunque inserire nel ricevitore questa card, perché le trasmissioni saranno non tutte, non interamente, ma in larga parte criptate. Qualcuno potrebbe chiedere perché criptate le trasmissioni gratuite, semplicemente perché il satellite diffonde su tutto il territorio europeo praticamente, e Rai, Mediaset e La 7 e tutte le altre emittenti non è detto che abbiano i diritti continentali per quello che riguarda il contenuto che sta mandando in onda. Cioè. E quindi molti contenuti saranno criptati, ma decrittabili grazie al possesso di questa card che sarà data insieme al ricevitore. Bene, quindi questa è l'offerta che partirà tra poco di TVSAT. Nel frattempo stanno succedendo alcune cose sul fronte Sky. Concluderei solo a proposito di TVSAT dicendo, anche se ne facciamo un breve accenno, anche perché noi ci occupiamo di tecnologie e non di tutta una serie di questioni, di scenari commerciali, di strategie che si potranno aprire. C'è chi dice che la Rai in questo caso abbia prestato un po' il fianco a Mediaset, che potrebbe in futuro costruire una piattaforma concorrente di Sky. Tecnicamente questo è possibile dal primo di agosto? Tecnicamente questo è possibile perché il modulo di decrypting e decrypting che è stato scelto per la piattaforma TVSAT è il medesimo di Mediaset Premium. Può essere che sia una semplice casualità, ma questo è anche vero che in qualche modo abilita in un futuro più o meno prossimo Mediaset a inserire sulla stessa piattaforma TVSAT dei canali a pagamento, per esempio di Mediaset Premium, e far sì che l'accesso condizionato a questi canali sia non più governato dalla card TVSAT che può essere sfilata dal ricevitore, ma dalla carta Mediaset Premium che può essere inserita nel ricevitore con la quale il ricevitore è compatibile. Quindi in questo modo di certo sembra, no? In questa, che possiamo dire, questa guerra, alcuni dicono guerra tra Berlusconi e Murdoch, ma io dico semplicemente tra le rispettive aziende, quindi tra Mediaset e Sky, che sono i due grandi attori che si stanno contendendo il mercato. Non scordiamoci che l'annuncio di qualche settimana fa che il giro d'affari di Sky ha superato quello di Mediaset è stata una piccola coltellata, no, nel fianco del biscione, che ovviamente cerca di, in qualche modo adesso, di riprendersi la sua seconda posizione dietro Rai. E quindi in questo contesto tutto sembra preludere a un futuro passaggio anche su satellite dei contenuti a pagamento di casa Mediaset. E questo lo vedremo appunto nei prossimi mesi, se succederà o meno. Dicevo che Sky sta comunque muovendosi e sta preparando una serie di nuovi canali in alta definizione. Allora oggi vogliamo parlare anche di alta definizione. Questo è un tema che ci piace affrontare ogni tanto, anche perché mi par di capire che questo forse già il 2008, 2009, 2010 sono gli anni dell'alta definizione in cui tutto sta partendo, sia su supporto con il Blu-ray Disc e poi anche... Tutto sta partendo in ragione del fatto che oggi è molto complicato riuscire ad acquistare un TV che non sia già in alta definizione, anzi è praticamente impossibile. E l'installato di TV in alta definizione, quindi HD Ready o comunque Full HD meglio ancora, è... Diciamo, sta crescendo, ci sono stime diverse, ma siamo sopra i 5 milioni e mezzo, 6 milioni di pezzi già venduti, c'è chi dice 10, comunque sono veramente tanti, e quindi è chiaro che incomincia a esserci un mercato appetibile. 2024. Stiamo parlando di alta definizione, stiamo parlando della battaglia nei cieli e sulla terra tra le TV digitali, sul digitale terrestre, ma naturalmente la battaglia è aperta anche alle piattaforme satellitari. Dicevamo poco fa con Gianfranco Giardini, il nostro esperto di audio e video digitale, che ci sono oramai in Italia parecchi milioni di persone, di famiglie, che hanno una TV che permette la visualizzazione di canali in alta definizione. Molti si domanderanno, Gianfranco, e adesso che cosa ci faccio con questa TV? E adesso cosa ci faccio? Oggi praticamente non ne vedo pochissimi, vedo qualche canale che Sky offre. A meno che vada a comprarmi un lettore per il Blu-ray Disc e compri dei film in alta definizione. Questi sono gli unici due modi fondamentalmente per godere dell'alta definizione, un po' poco. È partita una grande campagna mediatica anche da parte di Sky in questo momento, che dimostra di voler premere l'acceleratore sul fronte HD, anche se le dichiarazioni non di molto tempo fa della stessa Sky erano che l'HD era l'alta definizione, per Sky era un fiore all'occhiello, ma tutto sommato una voce di costo e non un profitto, perché la banda occupata è molto più ampia, perché comunque i contenuti costano di più e il ritorno non sarebbe stato anche numericamente così importante. Oggi arriva questa offerta molto forte di decoder e abilitazione all'alta definizione, soltanto con un costo una tantum di 49 euro, e poi i canali sono già compresi nei vari bouquet a cui uno è abbonato, con un'offerta che promette 30 canali in alta definizione e non gli attuali 5 o 6. Quindi un'offerta molto importante per noi che in Italia siamo stati abituati a quei pochi canali che si contavano sulle dita d'una mano. 30 canali tutti mi dicono, gli amici, i conoscenti, tutti, questi 30 canali, ma quali sono questi 30 canali? È difficile dirlo, perché i canali in realtà saranno 30 entro l'estate del 2010. Quindi è una promessa di Sky, che sicuramente verrà mantenuta, di attivare 30 canali. L'unica cosa certa che si sanno per ora sulla natura dei canali è quelli che verranno attivati entro fine agosto. Quindi nelle prossime settimane. Certo. E questi sono 15, sono già 15 quindi canali, già 15. Quindi tutti sport, cinema e poi anche delle varie declinazioni del cinema, Cinema Max, Cinema Hits in poi HD. Uno, insomma, se è interessato, insomma, si va a vedere la lista. Sul sito di Sky ci sono tutti. Hai fatto riferimento all'est, cioè hai detto noi in Italia siamo abituati, insomma, a vedere poca offerta, senza andare a toccare i campioni dell'alta definizione, cioè i giapponesi, i coreani, gli americani. In Europa come stanno le cose? Cioè siamo veramente gli ultimi a poter godere dell'alta definizione o in tutto sommato no? In Europa ci sono moltissimi paesi e la situazione è molto variegata. Diciamo che non siamo tra gli ultimi, ma neanche tra i primi. Se andiamo in Francia, in Gran Bretagna o in Germania, sicuramente sono molto più avanti di noi. In Francia soprattutto sul fronte digitale terrestre, dove hanno già molti canali, e in Germania sul fronte satellitare, per esempio, dove i canali anche lì sono molto da tempo disponibili, e tra l'altro con da parte di gestori diversi, ma su un decoder unico e condiviso, cosa che da noi invece ancora, come vediamo, non succede. Chiaramente per abbonarsi, cioè per vedere questi 15 canali che diventeranno 30 di Sky, bisogna avere due requisiti fondamentali: uno, essere già abbonati a Sky, oppure abbonarsi ex novo, ma diventare essere abbonati, cioè? E avere il ricevitore di Sky in alta definizione. Non è possibile farlo con un ricevitore di terze parti, non è possibile farlo per esempio con il ricevitore di TVSAT, della piattaforma di cui parlavamo prima. Quindi ti sei molto bisogna un po' scegliere, e anche registrare questi canali, no? È possibile perché esiste il ricevitore MySky HD che permette di registrare i canali in alta definizione, ma solo e soltanto col ricevitore MySky HD e solo e soltanto per registrazione temporanea, cioè si può registrare sull'hard disk interno, rivedere il contenuto, ma poi il contenuto prima o poi va cancellato. Quindi io non posso comprare un lettore registratore Blu-ray e registrarmi per i fatti miei i programmi di Sky. No, non lo posso fare. Chissà se lo potrò fare con i programmi di TVSAT. E anche in questo caso direi assolutamente di no, perché i programmi di TVSAT comunque sono criptati e i ricevitori non hanno un'uscita digitale in alta definizione che sia registrabile, perché il collegamento HDMI non è assolutamente registrabile. Ci vorrebbe un videoregistratore in alta definizione che abbia all'interno la logica di decrypt che Niagara. Non esiste al momento, non esiste, non sappiamo questo, se esisterà. Questo lo dico perché molti che sono abituati a registrare tranquillamente oggi dalla TV che noi vediamo tranquillamente in libertà non lo potranno fare in futuro con tutte queste proposte che sono affascinanti da un certo punto di vista, ma che ci obbligano a riconsiderare tutte le nostre abitudini con tutta una serie di vincoli. Poi certo, se uno entra nel sistema di ogni produttore trova effettivamente molte cose, però se io domani voglio cambiare devo prendere un altro decoder, insomma effettivamente le cose sono più complicate. Sì. Senti, sul digitale terrestre, visto che abbiamo parlato di alta definizione, l'alta definizione è disponibile, sarà disponibile, è tecnicamente fattibile, visto che tu dicevi l'alta definizione occupa una banda maggiore. Non so se nelle frequenze terrestri che sono state distribuite, che sono utilizzate dalla TV in Italia, ci sia così tanta banda. Beh, la banda è sempre una risorsa scarsa, sì. Sempre, per definizione, ma comunque sia, assolutamente sì, si può fare l'alta definizione su digitale terrestre, si è già fatta, Rai ha già sperimentato largamente questo modo di trasmissione in maniera non criptata, quindi aperta a chiunque avesse un ricevitore in alta definizione. I ricevitori digitali terrestri in alta definizione non sono molti, però ci sono per esempio molti TV che hanno al proprio interno un ricevitore già pronto per l'alta definizione, quindi hanno potuto vedere questi canali RAI in maniera, in queste trasmissioni RAI sul canale RAI HD, ma soltanto alcuni eventi sono stati fatti, e però delle volte anche a sorpresa, perché è un canale sperimentale per il momento. Si può fare, si è fatto e sicuramente si farà, ma si farà così sicuramente che Mediaset ha già annunciato in realtà una data fatidica, che è quella del prossimo 17 agosto, quindi non fra 100 anni, in cui inizieranno le trasmissioni regolari di Mediaset Premium HD, quindi di un canale in alta definizione a pagamento, che trasmetterà non 24 ore su 24 ma soltanto determinati eventi, che partirà con il trofeo Berlusconi il 17 agosto Milan-Juventus, la partita, e proseguirà poi dal 22 di agosto, da sabato 22 di agosto, con tutti gli anticipi serali e i posticipi del campionato di Serie A. Quindi sarà possibile vederli su Mediaset Premium per tutti gli abbonati a Mediaset Premium Calcio. Ricordiamo che per vedere questi eventi in alta definizione serve un decoder che sia abilitato alla ricezione di programmi in alta definizione e naturalmente anche un TV. Un decoder per l'alta definizione, beh, intanto sono disponibili ampiamente sul mercato. No, nella maniera più assoluta, stanno arrivando. Questo è un problema. Stanno arrivando, perché non basta un decoder che sia compatibile con l'alta definizione, ma deve essere compatibile con l'alta definizione e con il sistema di scripting è con la carta di Mediaset Premium. Quindi in realtà il consorzio di GTV, che è quello che governa le sorti del digitale terrestre in Italia, io dico in maniera impropria perché poi alla fine sono sempre Rai, Mediaset e la 7, dovrebbe essere forse la Agcom, cioè l'autorità garante delle comunicazioni, a governare questi eventi, invece lo fanno in autonomia le emittenti, ha stabilito dei nuovi criteri a cui devono rispondere ricevitori e TV abilitati alla ricezione dell'alta definizione in Italia, e sono questi apparecchi saranno riconoscibili, ammesso e non concesso che poi tutti i produttori stiano a questo gioco, da un bollino oro. Quindi ormai di bollini ce ne sono quanti? Esiste già il bollino bianco, il bollino blu, a seconda delle funzionalità degli apparecchi, uscirà il bollino oro. Il bollino oro cosa starà a significare? Che l'apparecchio, sia che sia un TV o che sia un ricevitore, è in grado di ricevere le trasmissioni digitali terrestri, interattive e non, e le trasmissioni in alta definizione, anche quelle a pagamento. Qualcuno, in molti, milioni di persone hanno già acquistato un TV in alta definizione con il tuner in alta definizione, convinti di poter vedere le trasmissioni in alta definizione. E non andrà bene. Infatti potrebbero farlo se le trasmissioni fossero gratuite e non criptate, ma essendo le trasmissioni criptate devono inserire da qualche parte la card di Mediaset. Sì. Allora cosa pensano tutti questi milioni di persone? Vabbè, che hanno sentito parlare della CAM. Cos'è la CAM? È un modulo che si mette in tutti i TV digitali e che abilita, o meglio in tutti, nei TV compatibili, e abilita il TV al decrypting delle trasmissioni a pagamento, infilando ovviamente in questo modulo anche la card, per esempio quella di Mediaset Premium. Le cam sono già largamente disponibili, quindi qualcuno potrebbe pensare: io ho il mio TV in alta definizione col tuner in alta definizione, prendo la cam e vedrò le mie partite in alta definizione. No, sbagliato, perché in realtà si è deciso di trasmettere le trasmissioni in alta definizione con un nuovo livello di protezione anticopia, richiesto soprattutto dalle major cinematografiche, perché dopo le partite, subito dopo, arriveranno anche i film. Questo modulo richiede uno slot diverso da quelli disponibili su TV fino ad oggi per inserire questa cam, che bisogna forse segnarselo per quando si va a comprare un TV, per sincerarsi che sia corretto. Lo slot non sarà più Common Interface, come si è sempre chiamato, ormai qua alcuni hanno imparato a conoscere, ma Common Interface Plus. Cioè più. Ci vuole questo più. Se non c'è questo più, non si può inserire la cam. Ma quale cam? Quella che è oggi disponibile? No. Ci vuole una nuova cam che sia anch'essa abilitata plus all'alta definizione, che sia compatibile con la Common Interface Plus. È una complicazione incredibile nella quale la gente chiaramente con la quale la gente dovrà confrontarsi e finirà, temo, per litigare con degli incolpevoli commessi nei negozi, perché certo. Onestamente sono notizie che non si sapevano in maniera così chiara fino a poche settimane fa, e chi ha venduto dei TV dicendo con questo potrà vedere l'alta definizione l'ha fatto sicuramente in buona fede, ma ahimè ha mentito. Pensate che oggi abbiamo parlato di TV, di una delle cose più semplici che fino a ieri e anche ancora oggi utilizzavamo, insomma, con una estrema facilità. Avete sentito quanto complicate sono diventate le cose? Devo dire anche con buona parte della colpa dei produttori di tecnologie, anche di chi offre poi questa tecnologia a livello commerciale con le trasmissioni, quindi Rai, Mediaset, forse in misura minore la 7 Telecom Italia e anche Sky, perché insomma questo mondo così complicato è stato creato da questi attori. Gianfranco, ti faccio una domanda, in questo caso penso che tutti possano capire una cosa molto semplice: quanto costano le TV per vedere l'alta definizione, quindi una TV pronta per l'alta definizione? Prezzo d'entrata? Bassissimo, poco? Qualsiasi prezzo, perché oramai sono tutte pronte praticamente per la definizione, qualsiasi TV si trova su qualsiasi volantino in offerta, anche da qualche centinaio di euro è un TV già pronto per l'alta definizione, con ovviamente una sorgente esterna, quindi al quale va associato un decoder esterno in alta definizione, potrebbe essere lo Skybox HD, sì, potrebbe sì. essere questi decoder nuovi per Mediaset Premium HD di cui abbiamo parlato. Invece ci vuole qualcosa in più, ma non tanto, ma semplicemente perché il tuner HD è già inserito, ma solo sui pollicciaggi un po' più grandi, per prendere un TV già pronto per l'alta definizione anche a livello di ricezione, però con tutti i distinguo di cui abbiamo detto prima. Sì, cioè sì. Un TV col tuner HD ma senza Common Interface Plus può servire per ricevere le future trasmissioni, per esempio di Rai, gratuite, ma non per esempio quella di Mediaset Premium. Mi sembra quasi che stiano diventando più semplici i computer e più complicata la TV. E questo è un paradosso, perché in teoria la TV dovrebbe diciamo riempire le serate, le giornate delle persone che per qualsiasi motivo non hanno più voglia o non sono tecno-abilitate a stare davanti al computer, perché già il computer sta portando via spettatori alla TV, e la risposta della TV dovrebbe essere una risposta più semplice. Se si complica, beh, il TV e YouTube credo che possano avere partita vinta molto, molto facilmente. Il computer e YouTube. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Torneremo su questo argomento perché ci sono molte altre informazioni che vogliamo fornirvi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche perché, visto che è così complicato il mondo, insomma, l'informazione è forse l'unica nostra salvezza. Grazie, buon lavoro, a presto. Grazie mille. E così concludiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a Luigi Borghi in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.